Se questo è un uomo, ditemi, se questo è un uomo che spende 75 euro per comprare le gemme nel videogioco di Clash of Clans, che ha 10 minuti di tempo per farsi una sega e ci mette un'ora per scegliere il video, che scende in piazza ogni giorno ma solo per far pisciare il cane, che pensa di cambiare le cose firmando petizioni online, che ha una speranza di vita di 89 anni ma non sa come passare un pomeriggio. Ditemi se questo è un uomo che si fa di coca solo per come lo fanno tutti, che sogna ogni notte chissà come sarà l'iPhone 7 e poi l'8 saranno pazzeschi, che scarica tonnellate di musica e proprio per questo non sa più cosa ascolta. Che però la ministra Maria Elena Boschi è figa, questo bisogna dirlo, che vorrebbe suicidarsi, ma dopo è troppo uno sbatti. Ditemi se questo è un uomo che a 35 anni ha visto 11.000 fighe in rete ma non sa parlare con una donna, che è laureato e vale tua opportunità di lavoro a 2 euro all'ora, che non sa più cosa sognare, allora si mette lì, sogna a caso, intercambiabile. E anche questa era una poesia, chiaramente. Ora invece un piccola prosa. Il giorno più bello della mia vita, Giorgio Seis. Il giorno più bello della mia vita è stato l'11 settembre 2001. Persone cadevano tutte giù dalle finestre, si buttavano come palline. Non avevano mai fatto una trasmissione così bella alla tele. Su ogni canale la stessa avventura, ma quella volta era vera. Era la prima trasmissione universale. Fu allora che ho sentito che facevamo parte tutti di uno stesso mondo, che non era immortale, poteva finire. E questo non mi sarebbe dispiaciuto, perché con mia moglie non va bene e ho 2 mutui da pagare. Non è che sono un uomo particolare o che ho qualcosa da raccontare, ma l'11 settembre 2001 non me lo toglie nessuno. All'inizio mi ha mandato un sms mio fratello, c'era scritto di accendere la televisione. Ma come, ho pensato, accendere la televisione e basta, con tutti i canali che ci sono. Già lì mi sono emozionato, ho capito che c'era qualcosa di strano, era l'11 settembre. Mi sono messo sdraiato comodo sul divano, acceso la tele, mio fratello aveva ragione, c'era l'11 settembre, finalmente qualcosa da ricordare. Le persone mi chiamavano al telefono e mi chiedevano se avevo visto. Stavamo vendendo tutti assieme, era quello il modo migliore per sentirsi uniti, era come un comunismo dell'orrore mondiale. I terroristi devono aver capito che ci sentiamo soli. Ricordo che c'erano quelli che si buttavano giù dal palazzo prima ancora che prendesse fuoco. Sembravano dei puntini, delle graffette, delle caccole, dei segni fatti per sbaglio con l'abiro sul quaderno del presente. Invece erano persone americane. Io mi sono alzato dal letto, ho preso una bottiglia di birra dal frigo, poi è crollato il secondo palazzo. Le notizie erano confuse, perché era appena successo il fatto del primo palazzo crollato, con la gente per strada che gridava e tutta la polvere che rincorreva quelli che scappavano dall'inizio dell'11 settembre. È arrivato di nuovo un aereo sull'altro palazzo, oppure non mi ricordo bene, sono passati dei minuti, c'erano tutti i telegiornali, sono andato a prendere un'altra birra e guardavo, e quando hanno detto che c'era stato un attacco anche al Pentagono, era tutto troppo emozionante. E se fosse stata la fine del mondo? Ho chiamato mia moglie al telefono e le ho detto che le volevo bene. Perché? Mi ha chiesto. Perché c'è l'11 settembre, le ho risposto. Lei evidentemente aveva la televisione spenta, ha riattaccato. Io ho preso un'altra birra mentre dicevano che poteva essere scoppiata la terza guerra mondiale, che quello era soltanto l'inizio. Comunque sarebbe stato un modo spettacolare per finire le cose. Io non ho mai capito tutta questa preoccupazione per continuare le cose. I terroristi forse erano a dire basta, andiamo a casa nel nulla universale. Ci siamo stufati di questo casino mondiale, la vita fa male, allora è meglio vederla finire alla televisione. Volevano dire come quando negli anni 70 la televisione finiva ogni giorno e poi ricominciava. Adesso invece non finisce mai. A un certo punto credo che mi sono addormentato, perché ho sognato che l'11 settembre arrivava immediatamente dappertutto, anche nel mio quartiere, e c'erano i miei vicini che si buttavano, anche quelli dal primo piano, ma non si facevano un cazzo, e si rialzavano e gridavano insanguinati che era l'11 settembre ormai, e dappertutto c'erano aerei che estinguevano le forme di vita sul nostro pianeta. Quando mi sono risvegliato ho sentito che Bush, che allora era il presidente degli Stati Uniti, volava senza meta sopra un aereo segreto e teneva sotto controllo la situazione. Poi è crollato un altro palazzo, ma non uno delle due torri, un palazzo con dentro dei segreti americani. Ovunque c'erano pompieri, erano i nostri eroi. Anche David Bowie l'aveva detto: eroi per un giorno, we can be heroes, just one for a day. Giravo di canale in canale, vedevo le stesse cose. Avevo un po' di paura, ma ero anche un po' felice. Sentivo che tutto incominciava a prendere valore. Guardavo i mobili e li stimavo. C'erano. Guardavo fuori dalla finestra, ma non c'era nessuno. Eravamo tutti a guardare l'11 settembre alla tele. Eravamo uniti.